Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e intanto da parte mia un auguro di buon anno a tutti voi in ascolto e un ringraziamento a Simone Spezia, Deborah Rosciani e Vincenzo Miglietta per la conduzione in questi giorni in cui il sottoscritto era in ferie. Allora partiamo subito con la cronaca dell'attualità. Faremo un punto in apertura sulla settimana, in realtà non è solo una settimana, sarà un mese bancario, ma questa settimana avrà un insieme di elementi che riguarderanno non tanto e non solo il Monte dei Paschi di Siena, lo dico per estrema precisione, ma anche e soprattutto la Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Per quello che riguarda sostanzialmente oggi dovrebbe arrivare all'autorità di risoluzione da un lato le eventuali manifestazioni di interesse non vincolanti per le quattro good banks, Cari Ferrara, Cari Chieti, Etruria e Banca Marche, ma ripeto, sulla Popolare di Vicenza e Veneto Banca oggi dovrebbe arrivare è arrivata in parte la proposta di risarcimento per i soci. Sono vicende diverse, ma tutte vanno dentro il calderone delle crisi bancarie, per cui Vicenza e Veneto Banca propongono un risarcimento. Le quattro banche ormai good, nel senso che la parte cattiva è stata scorporata, dovrebbero finire, visto che è molto improbabile che appaiano nuovi acquirenti. UBI interessata a tutte le banche tranne Cari Chieti, che invece dovrebbe andare alla Banca Popolare Emilia Romagna. Poi c'è il tema anche della Cassa di Risparmio di Genova, insomma, e il Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi di Siena il prossimo 19 gennaio. Segnalo, ma ne parleremo, la posizione del presidente dell'ABI, quindi l'Associazione delle Banche Italiane, e mi riferisco ad Antonio Patuelli, che ha detto insomma, ora i nomi sul Monte dei Paschi dei debitori insolventi delle banche, cioè i primi 100 debitori. Qual è il tema? Nel momento in cui lo Stato avrà il 70% del capitale del Monte dei Paschi di Siena, e quindi il Monte dei Paschi di Siena è di fatto una banca nazionalizzata, a mio avviso è anche corretto, e sono d'accordissimo per quello che può volere col presidente dell'ABI, che il nome dei debitori, ossia di quelle persone a cui il Monte dei Paschi ha fatto credito, che non sono risultate solventi e hanno peggiorato ulteriormente la situazione della banca, perché è vero che c'è stata la gestione Mussari, Baldassarri, Santorini, ci mancano i derivati che poi gli sono esplosi in mano, Santorini ed Alexandria, il giro ipotizzato dalla magistratura di una tangente, di un 5% di extra commissione per queste operazioni finanziarie, tutto vero, però non, ed è vero anche che il Monte dei Paschi pagò l'Antonveneta una cifra spropositata da Santander, non si è mai capito dove siano andati a finire in parte quei soldi, però è anche vero che da questo punto di vista, nel momento in cui noi cittadini italiani dobbiamo salvare i correntisti e gli obbligazionisti anche del Monte dei Paschi, la banca stessa, perché ci sono delle sofferenze che non riescono a essere gestite, sapere chi sono i primi 100 grandi debitori che hanno avuto soldi in prestito, non per fare il processo e la gogna, perché uno può aver avuto un prestito e poi aver avuto un problema aziendale, come è successo a moltissime piccole e medie imprese in questo paese, aver avuto un fallimento o un crollo del fatturato e non essere più stato in grado di ritornare il prestito. Però poi magari si potrebbe scoprire qualcosa di interessante, che alcuni prestiti furono elargiti, ipotizzo, a persone che non avevano merito di credito. Un conto è dare un credito bancario a chi ha un merito di credito, e poi la vita, insomma, è piena di incognite, nessuno ha una sfera di cristallo. Altra cosa è darlo, come abbiamo visto capitare in Banca Marche, ma anche in Etruria. Abbiamo raccontato la storia dello yacht, no? Dei sei super yacht da varare. Altra cosa è quando tu scopri che lo stesso Consoli in Veneto Banca, che venivano dati prestiti, quindi affidamento di capitale della banca, a persone che non erano in grado di, probabilmente, che avevano un elevato rischio. Quindi lì scatta il sospetto che tu abbia prestato i soldi agli amici. Allora, tu non presti i soldi agli amici se poi io devo salvarti come contribuente alla banca. Molto semplice, mi sembra molto chiaro. Ripeto, una lista si può avere, poi si scopre che alcuni erano gruppi che hanno avuto effettive difficoltà e che non c'è nulla di strano nell'operazione, altri magari sono amici degli amici, amici di Compasso, amici di Grembiule, non lo so, insomma amici degli amici. Questo è il sospetto e abbiamo diritto come cittadini di saperlo, visto che con i soldi dei contribuenti italiani verrà salvato, si spera definitivamente, il Monte dei Paschi di Siena. Di questo parleremo in apertura, parleremo anche delle altre, quindi il Monte dei Paschi, le due venete e le quattro banche, chiamiamole così, Good Bank. Parleremo anche di una vicenda che riguarda invece la Fincantieri, dove è una vicenda all'opposto di quella che abbiamo visto finora capitare, Francia che compra Italia, qui è Italia che compra Francia, l'operazione è ancora in fase di chiusura, ma insomma la vogliamo anticipare perché Fincantieri comprerà, va verso l'acquisizione, lasciamo il dubbio, del 67% quasi di STX France e dei gloriosi cantieri di Saint-Nazaire. Tra l'altro è un gruppo, un colpo da 90 per Fincantieri, perché per Fincantieri diventerebbe uno dei primi costruttori mondiali di cantieristica navale, anche di carattere militare, perché anche i francesi producono sia sul civile che sul militare, ne parleremo più avanti. Manca ancora il definitivo ok, ma insomma mi sembra che se non dovessero arrivare sorprese pazzesche l'operazione si andrà a fare. Parleremo invece anche del salone dell'auto di Torino, buonanotte, di Detroit, perché c'era molto mal di pancia da parte dei grandi costruttori per le prese di posizione di Donald Trump nei confronti degli stabilimenti dei grandi produttori americani di auto in Messico, e il numero uno di General Motors Barra ha detto: noi andiamo avanti con i nostri piani di produzione dopo la critica che è fatta da Trump per la produzione in Messico e l'importazione esentasse negli Stati Uniti. Trump ha ventilato anche un'ipotesi di dazio criticando Toyota, e Toyota aveva risposto: lo stabilimento in Messico non cambierà i livelli di produzione e di occupazione negli Stati Uniti. Alle critiche di Trump sull'impianto in Messico, invece, un altro colosso americano, Ford, ha risposto rivedendo i suoi piani, accantonando il progetto di $1.6 miliardi di investimento in Messico. Fiat oggi ha annunciato di investire $1 miliardo negli Stati Uniti e per creare 2.000 posti di lavoro. Stranamente, dopo la posizione di Ford e la posizione di Fiat, General Motors, Trump ha twittato: grazie Fiat Chrysler e Ford, come diciamo anche per distinguere il giudizio rispetto alla posizione di General Motors. Ne parleremo, perché poi da Detroit sono arrivate numerose dichiarazioni anche che riguardano i conti di Fiat. E a questo proposito chiudo la premessa con la borsa: -1,55% Milano in questo momento, perde circa un punto percentuale in più rispetto ad altre borse, perché Parigi fa -0,50%, Francoforte -0,30%, Londra +0,30%, Dow Jones -0,16%, euro a quota 1,05 nei confronti del dollaro. Chi va bene? ST Microelectronics +3%, Fiat Chrysler +1,40%, Brembo +0,40%, Hughes Net a Porter +0,40%. Chi va male? Tutte le banche. Unicredit -4,20%, Mediobanca -4%, Ubibanca -3,60%, Banca Popolare di Milano, come si chiama adesso, -3,40%, Saipem -2,80%, Intesa San Paolo -2,70%, come Generali, Unipol -2,5% come Prismian, e poi andando appunto non più sui bancari, Telecom perde il 2,30% come le Poste Italiane e Italgas. Ultimo numero, come sempre, quello per gli SMS e WhatsApp, 349-238-6666. Andiamo sulle notizie in breve. Allora, andiamo avanti con le altre notizie in breve per quello che riguarda la produzione industriale in Germania a novembre più 0,4%, lievemente sotto le attese. Noi partiamo sempre dalle notizie di carattere internazionale. L'export però in crescita a novembre, e il surplus commerciale tedesco, quello molto criticato da altri paesi, perché dicono che la Germania, giustamente, lo dicono giustamente, non si attiene alle regole previste da Maastricht, cioè che devi limitare il deficit ma anche l'eccesso di surplus commerciale, va a 21,7 miliardi di euro. E su questo alcuni di voi mi twittano, sì, è vero che hanno arrestato, ma ne parleremo più avanti quando parleremo di auto del salone di Detroit, l'FBI ha arrestato un dirigente della Volkswagen con l'accusa di complotto in relazione allo scandalo Dieselgate, lo riportava oggi il New York Times. Gli agenti hanno arrestato nella sua casa in Florida Oliver Schmidt, responsabile dal 2014 al 2015 della sezione della casa automobilistica tedesca che gestiva le questioni regolatorie negli Stati Uniti. Ricordiamo che Volkswagen ha riconosciuto, ha ammesso di aver installato un software su 11 milioni di veicoli diesel venduti in tutto il mondo per aggirare i test sulle emissioni, consentendo alle automobili di rilasciare fino a 40 volte in più emissioni consentite rispetto ai limiti sull'ossido di azoto. Ancora andiamo avanti con le altre notizie rispetto al di là di Trump. Andiamo sull'Italia. Il dato di oggi su novembre. Allora, cresce l'occupazione ma aumenta la disoccupazione. È un fenomeno che abbiamo già commentato molte volte. E cioè l'occupazione misura tutti quelli che lavorano, fatto 100, chi potrebbe lavorare. La disoccupazione invece misura chi non lavora tra chi sta cercando un lavoro. La differenza la fanno gli inattivi, cioè persone che non stanno cercando un lavoro, non sono nella lista di disoccupazione, non vogliono trovare un lavoro, spesso perché rinunciano a cercare un lavoro. Allora, sono diminuiti gli inattivi e questo ha portato a un aumento dell'occupazione, ma sono anche aumentati i disoccupati. Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni sono calati di 93.000 unità rispetto a ottobre, di 470.000. Quindi il tasso rispetto all'anno prima, il tasso di inattività è ai minimi storici, 34,8%. È risalito il tasso di disoccupazione all'11,9% e soprattutto è risalito il tasso di disoccupazione giovanile al 39,4%, è il livello più alto da un anno a questa parte, da ottobre 2015. Il tasso di occupazione invece a novembre è aumentato solo per i lavoratori con più di 50 anni. Allora il dato è, infatti, sono 200.000 occupati in più in un anno sull'anno precedente e tutta la crescita, lo dice l'Istat stessa, si concentra sugli over 50. Il titolo, ogni volta che commentiamo i dati sulla disoccupazione veramente è un labirinto, però se vogliamo dare un titolo, il titolo è il seguente. Calano gli inattivi, rispetto a un anno fa sono 470.000 di meno. Calano anche, o meglio, aumentano anche gli occupati, sono 200.000 in più in un anno, perché non è che tutti quelli che non sono più inattivi trovino subito lavoro. Uno può non essere più inattivo, si mette a cercarlo, alcuni lo trovano, altri no. Quelli che non lo trovano finiscono nei disoccupati, infatti aumentano anche i disoccupati. Quindi aumentano gli occupati, 200.000, aumenta la disoccupazione all'11,9, ma soprattutto la disoccupazione giovanile risale al 39,4%. Tant'è che l'Istat dice, è vero che c'è stato un aumento della occupazione e anche delle persone che si sono rimesse a cercare un lavoro, appunto il calo degli inattivi, tant'è che alcuni non avendolo trovato aumentano pure la disoccupazione, ma tutto questo fenomeno positivo si è concentrato esclusivamente o principalmente su chi ha più di 50 anni, tant'è che la disoccupazione giovanile è risalita al 39,4%. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, a firma del vice direttore del Sole 24 Ore Salvatore Padula. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Come succede da tempo, anche gli ultimi dati sull'andamento dell'occupazione, li ha diffusi oggi l'Istat e sono relativi al mese di novembre, restituiscono una fotografia del mercato del lavoro non facile da decifrare. Il dato positivo è che novembre ha visto il tasso di occupazione in miglioramento rispetto a ottobre. Si tratta, dice l'Istat, di un aumento mensile di circa 19.000 posti di lavoro, un numero non proprio enorme, ma va detto che nei 12 mesi, quindi tra novembre 2016 e novembre 2015, i posti aggiuntivi sono stati oltre 200.000. Ancora una volta i nuovi lavori riguardano in prevalenza le donne e gli ultra cinquantenni, il che spiega in parte il brutto dato che riguarda invece i giovani. Qui diminuiscono gli occupati e aumenta la disoccupazione. Parliamo della fascia di età tra i 15 e i 24 anni. La disoccupazione risale al 39,4%, che è il livello più alto degli ultimi 12 mesi. Va letto in chiaroscuro invece il dato complessivo sul tasso di disoccupazione. Si torna all'11,9%, anche in questo caso livello più elevato da un anno a questa parte. È un dato in chiaroscuro, si diceva, perché convive sia con la crescita del numero degli occupati, ma a suo modo segnala anche una maggior fiducia nel poter trovare un'occupazione, visto che nel periodo sono in diminuzione le persone inattive, cioè quelle che non lavorano e che sono anche così sfiduciate da non cercare neppure un'occupazione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, non vedo alcuni messaggi al 349-238-6666. È così il dato, non è un dato univoco. Possiamo dirlo in un modo ancora diverso. L'aumento degli occupati è solo per chi ha più di 50 anni. Buono il fatto che più persone cerchino lavoro, anche a costo di non trovarlo, ma almeno non sono inattive. In realtà poi, andando a guardare il complessivo dell'anno, è palese che l'effetto che c'è stato della decontribuzione, inutile far polemica ancora, dai Renzi non c'è più, restiamo sui fatti, c'è stato l'effetto positivo della decontribuzione. Poi uno può fare un ragionamento: quanto ci è costata questa decontribuzione fino a 8.000 euro nel 2015 e fino a 4.000 euro nel 2016. Il problema è che dopo aver svolto i suoi effetti, cioè in chi era incerto se assumono o no, magari ti teneva collaborazione invece che assumerti a tempo indeterminato, se l'economia continua a fare 0,8-0,9, basta, l'effetto si esaurisce. Non c'è neanche, puoi andare avanti a botte di decontribuzione che hanno un costo per i soldi pubblici. Magari uno può impostare una manovra, questa è la prossima però, ma una ce l'abbiamo già, riducendo IRPEF e IRAP, cioè le tasse su chi il lavoro lo fa e il lavoro lo dà. Questo è un vecchio invito fatto all'allora Presidente del Consiglio. Partiamo con la settimana delle banche. Devo dire che insomma, è quasi eufemistico, perché qua sono i mesi delle banche, non parliamo quasi d'altro, e ci mancherebbe. La settimana delle banche che prevede? Allora, oggi Popolare di Vicenza e Veneto, adesso vi arriviamo. Poi dovrebbe sempre oggi pervenire presso l'autorità di risoluzione, e qui invece voglio entrare subito nel tema, l'eventuale manifestazione di interesse non vincolante per le quattro banche, chiamate buone adesso, Cari Ferrara, Cari Chieti, Etruria e Banca Marche. Oh, vedo che molti mi stanno scrivendo sulla frase che ho detto prima, citando Patuelli, presidente dell'ABI, che ha detto: ora ci diano almeno i nomi dei primi 100 debitori insolventi delle banche che sono state salvate. Mi riferivo a Monte dei Paschi, io, distinguendo tra chi, ma non è una gogna, uno, ripeto, può aver avuto un fallimento aziendale, un drastico crollo dopo quello che è successo in questi anni, e lì la banca non ha colpa, così come non ha colpa l'imprenditore, ma l'affidamento era giusto. Oppure si può scoprire che, come in alcuni casi a Chieti, a Veneto Banca, a Popolare di Vicenza, Etruria, venivano dati soldi su progetti assolutamente da drogati, scusatemi il termine, senza offesa per i drogati, cioè i sei super yacht da vararsi, che neanche uno ha visto, cito l'ultimo caso, era Etruria se non ricordo male, no, per cui e lì il rischio vero è, o meglio il sospetto vero, che siano stati dati agli amici degli amici. Ho detto nel caso di Siena non me ne frega nulla se sono amici di Compasso, amici di Grembiule, qualcuno fa battute, ma guardate che è stato l'ex presidente del Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo, a ricordare in un'intervista, possiamo riascoltare un attimo, a di martedì con Giovanni Flori, sera il 18 ottobre, a dire: io alcune cose, quando ho aperto i libri a Siena e i conti, alcune cose obiettivamente non me le spiegavo. E cita lui, cita Profumo l'ipotesi di massoneria. Possiamo farlo risentire? Purtroppo quando vedo dei fenomeni che non riesco a spiegarmi e vedo dei legami fra persone che non riesco a spiegarmi, parlo della massoneria, poi possiamo parlare di altro, però quando sono purtroppo un animale razionale e faccio fatica a capire alcune cose, quando ci sono troppe cose che non riesco ma a spiegarmi. Ma ha un nome e cognome la massoneria, no, a Siena? No, nella sua esperienza. Cosa vedeva? Sì, non, ce la racconti la massoneria? No, beh, vedevo e ho visto, ad esempio, delle scelte di persone basate su motivi che non riuscivo a capire. Cioè, lei eliminava la competenza, il merito, magari rimaneva solo la massoneria, diciamo. Ci arrivava per eliminazione. Restavano le appartenenze. In genere si pensa, quando si parla di Siena, che le appartenenze fossero quelle verso il vecchio Partito Comunista, poi scavi e scopri che c'era una trasversalità, ad esempio. Allora dici, ma come mai c'è questa trasversalità? Qualcuno che è venuto da me mi ha detto: guarda, io sono massone, non c'è mai stato, no? Che valore aggiunto ti dà Flavio Carboni che non è nel consiglio di amministrazione? Che valore aggiunto dà? Non lo so, evidentemente darà dei valori aggiunti di legami, di introduzione ad altre persone e così via. Sembra che Profumo sia stato molto più esplicito di me e ha fatto il presidente del Monte dei Paschi di Siena con Viola, quindi queste cose le ha viste. Ripeto, è sempre sbagliato, ma nel momento in cui io personalmente, Marco Ferrando del Sole 24 Ore, che ho qui di fronte, buonasera Marco. Buonasera. Diventiamo, assieme a voi che ascoltate, azionisti di fatto, non di fatto, azionisti veri, con 70% del Monte dei Paschi, e vedremo le altre banche. Vogliamo, come azionisti, la lista degli affidamenti, capire a chi la gestione Mussari ha dato i soldi, a chi la gestione Zonina ha dato i soldi, ammesso che dovessimo entrare anche in Popolare di Vicenza, a chi la gestione Consoli ha dato i soldi, a chi la gestione Boschi, adesso mi viene in mente del presidente di Etruria il nome è Fornasari, ha dato i soldi, e via così, sulla Chieti, sulla Cassa di Risparmio di Genova, sulla Ferrara, sulla Marche. Oh! Sono salvate grazie ai nostri soldi. Vogliamo vedere le responsabilità e i nomi e i cognomi. E magari ci facciamo pure una rubrica. A quel punto vi dico già che nella rubrica del venerdì queste banche, visto che sono soldi nostri, potrebbero anche entrare, perché parliamo solo dei soldi dei contribuenti. Comunque, Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, sul decreto Gentiloni Padoan: non va bene così con me, chiederemo profonde modifiche. Noi abbiamo detto fin dall'inizio, per quanto riguarda le banche, che noi avevamo votato l'autorizzazione all'indebitamento di 20 miliardi con questa specifica clausola, che il decreto fosse nel suo iter parlamentare condiviso con tutti i gruppi parlamentari. Siccome il decreto non va bene così com'è, noi chiederemo profonde modifiche. Se le modifiche saranno date e se ci sarà collaborazione da parte del governo, noi siamo disponibilissimi a votarlo. Ma se continuerà questo comportamento di Padoan, quello dei 1000 giorni renziani, ma anche questo di queste ultime settimane, per cui silenzio e soprattutto improntitudine, incapacità di cogliere veramente la realtà del sistema paese, noi voteremo contro, tranquillamente contro. Noi abbiamo aperto un credito al governo Gentiloni, più che al governo Gentiloni, agli italiani, per avere un provvedimento condiviso sulle banche, ma se il governo continuerà come ha fatto nei 1000 giorni di Renzi, noi voteremo tranquillamente contro e daremo conto di tutto questo agli italiani. Allora, Marco Ferrando, la situazione di intanto le quattro, ciò che resta, le quattro Banca Cariferale, Carichieti, Etruria e Banca Marche. Se ho ben capito, tre vanno a UBI e Carichieti andrà a Banca Popolare Emilia Romagna. Sì, così è, se nessuno dovesse farsi vivo, nel senso che oggi scade il termine per il giro di tavolo, chiamiamolo così, a cui è stata costretta dalla Commissione Europea la Banca d'Italia, che sta gestendo questo processo di dismissione, per cui, visto che UBI ha fatto un'offerta considerata peggiorativa rispetto a quella che era venuta fuori in autunno, ha obbligato la Banca d'Italia a ricontattare tutti quelli che si erano fatti avanti, per lo più fondi di private equity, per sondare un eventuale rigurgito di interesse, diciamo così. C'è da auspicare, dico per la celerità dell'operazione, che non sia arrivato un segnale di un ritorno di interesse, perché sennò vorrebbe dire che i tempi si riallungherebbero, nuove due diligence e quant'altro. Se, come ci si aspetta, nessuno batterà un colpo, UBI dovrebbe in settimana formalizzare l'interesse per Marche, Etruria e Chieti, mentre Biper sarebbe la candidata naturale per Ferrara dopo una cura lacrime e sangue sul fronte degli occupati. Allora, per quello che riguarda invece il fronte, diciamo, le tre, Cariferrara, Carichieti, Cariferrara, Etruria e Banca Marche andranno a UBI e Carichieti a Popolare Emilia Romagna. Ormai mi sembra che cavalieri bianchi o cavalieri grigi o cavalieri rosa. Sì, si chiamano Good Banks, in realtà dal prezzo di cessione, che è simbolico di un euro, è evidente che di buono a un bel po'. No, te lo dico a chi fosse interessato, non è che con un euro ti compri una banca, ti prendi anche i debiti, nel senso che... Sì, ti prendi i debiti, ti prendi centinaia di filiali più o meno inutili e un sacco di bancari a cui far fare qualcosa. Fronte Monte dei Paschi di Siena, il consiglio di amministrazione è il prossimo 19 gennaio, poi adesso invece arriverò. Allora, Monte dei Paschi si salva se passa il decreto, che serve in primis al Monte dei Paschi, poi ci sono le altre, però in questo momento, per essere chiari, mentre Veneto Banca e Popolare di Vicenza vedremo, chi non vive senza il decreto del governo salva risparmio, il decreto banche salva risparmio, è il Monte dei Paschi. Allora, ha iniziato il suo cammino in Commissione Finanze al Senato, qualcuno aveva detto ma perché partono dal Senato dove il governo non ha una maggioranza così chiara? Vabbè, questa ormai è polemica dei giorni scorsi. Il governo conta su un approccio bipartisan, quindi anche di parte dell'opposizione. La dichiarazione di Brunetta però che abbiamo appena fatto sentire, qualche punto interrogativo lo pone, Marco. Sì, lo pone, perché non dimentichiamo che stiamo parlando di una manovra da 20 miliardi, che sono tantissimi soldi. Il governo ha spiegato dicendo che, essendo debito, non va a incidere sui saldi, nel senso che lo Stato emetterà BTP in più per 20 miliardi nella speranza che questi soldi messi nelle banche tornino indietro. Però è una speranza al momento molto ottimistica. Le banche valgono poco, quindi pensare che nello spazio di due o tre anni il Monte dei Paschi possa restituire i 6 miliardi che riceverà, o altre banche restituire gli altri miliardi che potrebbero ricevere, è una speranza veramente molto, molto difficile da confermare per quanto è la situazione oggi. Nel caso in cui non tornassero indietro i soldi, evidentemente non sarebbe più debito, ma andrebbe a impattare sul debito pubblico complessivo, e quindi la rilevanza politica di questa scelta sarebbe molto più grossa. Vedo che gli ascoltatori mi dicono che forse ho fatto un refuso, chiedo Venia, cari Ferrara, che andrà da Popolare in Emilia Romagna, Ferrara a Biper e Chieti, certo, a Chieti a UBI, ho fatto un refuso io parlando, chiedo Venia, ha ragione Marco Ferrando, ci mancherebbe, per cui cari Chieti resta a UBI assieme a Etruria e Banca Marche, cari Ferrara dovrebbe quasi certamente andare alla Popolare Emilia Romagna, in questo la continuità, chiamiamolo così, territoriale, anche in più senso, ho fatto io un refuso, chiedo Venia. Andiamo avanti, quanti rischi e quando però, diciamo, saremo fuori dai rischi? Perché il CDA dell'MPS è il prossimo 19? Il CDA il 19 sicuramente si farà il punto sul piano industriale, di cui si dovrebbe parlare anche tra domani e dopo al Tesoro, dove Morelli e Falciai, amministratore delegato e presidente del Monte, sono attesi dal ministro, non sappiamo ancora se domani o dopo. Quindi il 19 in consiglio si farà il punto sul piano industriale, che è un passaggio fondamentale perché andrà discusso con BCE e con Commissione Europea, e da questa discussione emergerà l'esatto montare del fabbisogno di capitale. Adesso noi ragioniamo su 8,8 miliardi, potrebbero cambiare, difficile ma non si sa. In più il CDA ragionerà anche sull'emissione dei bond, 19 miliardi, non sono pochissimi, che potrebbero essere messi tra gennaio e febbraio. Con la garanzia dello Stato, evidentemente, essendo nuovo azionista, ma serve anche qua il decreto. Allora, questo per quello che riguarda la settimana e il mese. Oggi invece c'è già un primo appuntamento in questa settimana e le proposte di ristoro, come si dice in gergo, cioè che cosa dare ai risparmiatori che hanno perso tutto o gran parte dei loro risparmi nel fallimento della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, in particolar modo la parte, ricordate, abbiamo parlato decine di volte, azioni vendute a 62 euro nell'estate 2014 per quello che riguardava la Pop Vicenza, 40 euro sempre nel 2014 Veneto Banca, scese a 10 centesimi nel caso di Veneto e 10 centesimi anche nel caso di Popolare di Vicenza, senza la possibilità di vendere perché non erano quotate in borsa e quindi con un prezzo che era stabilito in maniera arbitraria dal consiglio di amministrazione, che diceva la banca vale questo, poi tu andavi a cercare di vendere, non, nessuno, non trovavi mai un compratore, il prezzo scendeva da 62 a 48, da 48 a 6, da 6 a 0,1. Okay? Di questo parliamo però dopo il meteo e la pubblicità. Grazie intanto a Marco Ferrando, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, ristoro, questo è il termine corretto, che non è dare un tè caldo, un vin brûlé e un wurstel a qualcuno, ma vuol dire dare, cercare di limitare il danno ai risparmiatori che hanno perso tutti o gran parte dei loro risparmi nel fallimento delle mitiche Popolari di Vicenza e Veneto Banca, che hanno distrutto valore per oltre 10 miliardi, siamo 12 miliardi di euro se non ricordo male, in un'area, diciamo, che va da Vicenza a Montebelluna soprattutto. Oh, vedo adesso che Viola, Fabrizio Viola, ha appena dichiarato possibile fusione con Veneto Banca entro il 2020, devo riprendere le agenzie perché appaiono, eccola qua, possibile fusione già nel corso dell'anno, ma concentriamoci. Fusione entro 2017 fattibile tra Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Oggi però arrivavano le proposte di ristoro. A Padova c'era un incontro che per la prima volta vede riuniti i vertici di entrambe le banche, quindi per la Vicenza il presidente Gianni Mione e l'amministratore delegato Fabrizio Viola e il vice direttore generale vicario Jacopo De Francisco. Per Veneto Banca il presidente Massimo Lanza e l'attuale amministratore delegato e direttore generale Cristiano Carrus. Offerta di transazione. Fabio Pavesi, chi riguarda, quanto ammonta e che cosa prenderanno i vari soggetti? Buonasera Fabio. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, la proposta mette sul piatto una sorta di ristoro che vale il 15% del valore investito. In soldoni dovrebbero essere circa 600 milioni di euro. E riguarda tutti quelli che hanno comprato azioni negli ultimi 10 anni della storia delle due banche e ovviamente, come dire, è la prima volta, e questo è il dato, chiamiamolo positivo, della vicenda, che una banca ristora degli azionisti, perché ovviamente l'azionista raccoglie capitale di rischio e quindi in teoria partecipa completamente alle vicissitudini. Hanno voluto sottolinearlo come aspetto positivo ed essendo un'iniziativa volontaria, a maggior ragione. Certo è che rispetto a quei 10 miliardi di dollari bruciato, insomma, il 15%, tant'è che ad esempio, tanto per dare un numero, Vicenza ristorerà 9 euro per azione. Sappiamo che gli ultimi acquisti furono fatti a 62,5 e quindi chi ha comprato a quei prezzi si ritroverà con 9 euro, che è meglio di zero ovviamente, però è proprio un ristoro. Ecco, senti una cosa Fabio, perché diciamo tutta questa operazione viene lanciata per evitare le cause. Eh beh sì, infatti il tema è proprio perché le cause sono tante, 10.000 reclami e rischiano di impantanare le banche, perché ovviamente se c'è una causa in corso tu non sai quanto dovrai sborsare, se vincerai o perderai, e questo blocca letteralmente l'attività della banca. E quindi i due presidenti e i nuovi consiglieri hanno deciso di giocare d'anticipo e lo dicono chiaramente. Questa iniziativa serve proprio a stemperare il rischio dei contenziosi legali e si augurano che almeno l'80% partecipi a questa iniziativa. perché a quel punto le banche non avrebbero più l'incubo delle cause legali. Poi le banche giocheranno su un altro fronte, in realtà fanno delle proposte commerciali e quello aiuta le banche a aumentare la loro raccolta, perché verranno proposti conti deposito per la cifra che verrà ristorata, anzi 5 volte la cifra ristorata, al 3% lordo. Quindi delle offerte anni. Vantaggiose anche sul tipo di conto praticato, diciamo così, di servizio praticato? Banca, per non perdere i clienti, perché ovviamente c'è una crisi di fiducia, la raccolta, i clienti sono letteralmente fuggiti, cioè le banche hanno perso il 30% dei ricavi, hanno perso raccolta, hanno liquidità sempre borderline, è ovvio che se tu ristori poi speri che rientrino quei soldi sotto forma di nuovi depositi bancari, e questo per evitare che ci siano fughe di clienti, che è la preoccupazione maggiore delle banche. Allora, va detto che, visto che tu ricordavi che qui parliamo di azioni, siamo sul filo del rasoio, perché in punta di diritto, diciamo, uno dovrebbe dire no, l'azionista non merita nessun tipo di risarcimento perché è consapevole che partecipa al rischio aziendale, vale per un'impresa manifatturiera dei servizi, vale anche per un'impresa bancaria, cioè compri, così come hai il vantaggio di avere i dividendi se la banca o l'impresa va molto bene, partecipi agli utili, partecipi anche alle perdite. Qual è il problema qui? Che ci si è accorti, tra virgolette, che moltissimi di questi azionisti erano intanto obbligati, se volevano un mutuo, a comprare un po' di azioni. In secondo luogo, ad altri è stata fornita un'indicazione sbagliata, non si preoccupi, il titolo è sicuro. Ma soprattutto, non essendo quotati, non erano in grado di stabilire se i 62 euro posizionati per la Popolare di Vicenza e 40 per Veneto Banca, ripeto, sono crollate poi a 10 centesimi, fossero un prezzo congruo o no. Veniva stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Dopo il traffico, vorrei sapere, Fabio, se comunque c'è un distinguo tra gli azionisti, perché non è uno che ha comprato il titolo a 6 euro, adesso se ne becca 9, perché quello lo sapevi che il titolo era già messo male, e come si farà, tra virgolette, a profilare chi ha queste caratteristiche, cioè è stato gabbato da una MiFID non corretta, quindi nel profilo di rischio, gabbato le informazioni che ha avuto, gabbato o obbligato a comprarle per avere il mutuo. Dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, Fabio, come si farà a individuare chi oggettivamente, pur avendo comprato azioni, ha subito una truffa, nel senso che non poteva immaginare che da 62 euro sarebbero scese a 10 centesimi? Tra l'altro sappiamo che invece altri azionisti della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca avevano i cosiddetti prestiti baciati, no? E quindi avevano un trattamento opposto, no? Sì, allora, verranno ristorati di fatto le famiglie e le piccole imprese individuali, cioè l'artigiano, la SAS, le SRL. Sono completamente esclusi le società di capitali, gli investitori istituzionali, perché si presume che sta perso lo andavano a comprare, e soprattutto tutti quelli coinvolti nelle operazioni baciate, perché erano quegli imprenditori o quelle persone che ricevevano, come dire, il fido in cambio a sostituzione di azioni. Ecco, queste categorie sono del tutto escluse, perché si presume che ci sia stata una sorta di doubt death, no? Cioè, io ti do il fido, mi compri le azioni, spesso quel fido non viene rimborsato, diventa una sofferenza per la banca. E quindi loro si aspettano che circa l'80% del corpo sociale sia coinvolto da questo processo. C'è una notizia che è trapelata, perché poi abbiamo cercato di parlare del futuro di queste due banche, al di là delle operazioni di ristoro, è che sappiamo per certo che tutte e due hanno bisogno di un nuovo aumento di capitale, perché sono stati dati dall'Atlante, che è l'azionista, 900 milioni in conto capitale, quindi liquidità, se l'operazione andrà in porto 600 milioni verranno dirottati ai clienti, e quindi con le svalutazioni delle sofferenze, che sarà un fine d'anno ancora disastroso per i bilanci di due banche, perché dovranno svalutare le sofferenze pesantemente, e i 2,5 miliardi che Atlantia ha immesso solo un anno fa, a questo punto non bastano più, le due banche scenderanno sotto il patrimonio di vigilanza. Sotto, cioè, bisognerà aumentare di nuovo il capitale della Veneto e di Vicenza. E ci sarà la richiesta su Atlante, che è il consorzio delle banche che ha tirato fuori i soldi per salvarle, di un nuovo aumento di capitale. Questa è una cosa, Viola ha detto che oramai è abbastanza certo che occorrerà nuovo capitale. Rispetto a una domanda ha risposto che sì, insomma, no, un nuovo aumento di capitale è inevitabile di fatto. E questo, e chi li metterà i soldi? È Atlante, perché è l'azionista con il 99%. Quindi sempre il mondo bancario? Quindi l'intero sistema bancario, cioè il tema è che le banche sane in questo momento stanno facendo carico in modo pesante di banche malate, e questo comunque è un problema, nel senso che ovviamente banche che hanno corso meno rischi oggi si chiedono, in virtù della stabilità del sistema, io faccio questo sacrificio, ma come dire, mi pesa ese rischio, poi appunto che anche le banche sane, come dire, vengano in qualche modo penalizzate dalle situazioni di crisi. Ultima domanda, il fronte invece delle cause risarcitorie? Il fronte delle cause è che le cause sono in corso, non sanno quantificare quelli in fieri, però tutte e due le banche hanno dovuto accantonare, allora hanno accantonato la Vicenza, ha accantonato 140 milioni per il momento, Veneto Banca ne ha accantonati 120, sono circa il 30% delle richieste effettive, cioè le due banche a fronte delle richieste, Veneto Banca che ha circa 300 milioni, ha già messo ad accantonamento 120 Scusa, milioni. E invece le azioni di responsabilità nei confronti degli ex vertici, quindi Consoli e Zonini in primis? Abbiamo anche chiesto che sarebbe opportuno dare i nomi dei 50 primi grandi debitori insolventi. Come nel caso del Monte dei Paschi. La risposta è stata che ovviamente il nuovo vertice ha tutto l'interesse a farlo per ragioni di trasparenza e correttezza, si trincerano dietro alla privacy. Ovviamente. No, però perché oggi l'antitrust ha detto che sul fronte delle imprese non c'è nessun estremo di tutela della privacy, cioè si può andare avanti, non vede una violazione della privacy, quindi non dicessero balle. Infatti i nuovi vertici oggi hanno detto che se la legge lo consente, sentiti i loro legali, non hanno nessuna difficoltà a rendere noti questi nomi, almeno dei grandi debitori insolventi che con le loro sofferenze Debitori insolventi, e poi si andrà a vedere se, come dicevamo prima con Marco Ferrano nel Monte dei Paschi, qualcuno ha veramente avuto una crisi aziendale o qualcuno ha avuto solo dei favori, come abbiamo scoperto in altri casi. Ma faranno l'azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici o no? Questo vorrei capire, sì o no? Quella sta procedendo, ambedue le banche hanno varato l'azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici, Zonino e tutti i consoli, e i loro e i vecchi amministratori dei vecchi. Allora, buon anno anche a te Fabio, visto che è la prima volta nel 2017 che ti abbiamo avuto ospite, non sarà l'ultima. Grazie a Fabio Pavesi, andiamo su GR24. E poi andiamo invece su Borsa e Detroit e Fincantieri. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Passiamo adesso alla borsa. Vedo molti commenti sul ristoro agli azionisti con le caratteristiche che abbiamo descritto di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Ho già detto che si è al limite, perché l'azionista partecipa al rischio quando compra il capitale di un titolo. punto è che veramente qui ci sono profili, non è tanto, non è solo il crollo del 99% del valore del titolo, che sicuramente c'è, ma è anche il fatto che i titoli non fossero quotati, e bisogna capire i profili a cui sono stati venduti. Guardate che si sta cercando un'operazione analoga anche sulle quattro banche. Dopodiché, ripeto, quando tocchi gli azionisti, qualcuno mi scrive: ma allora io potrei comprare Eni adesso e poi un domani lamentarmi che non sapevo. A parte che Eni è quotata, e poi io non ho mai sentito, se non in queste due banche, parlo degli azionisti, casi come quelli che abbiamo raccontato in questi anni, di persone, capito, convinte a prendere titoli a prezzi folli. Perché il problema è lì che l'Eni ha un prezzo, uso l'Eni perché il titolo a maggiore capitalizzazione, ha un prezzo che è fissato ogni giorno dal mercato, per cui uno te la può proporre a 100 euro, ma se il titolo quota 15,40 tu non la compri. Il problema è che lì su Veneto Bank e Popolare di Vicenza dicevano: guardate che il titolo, la banca è strasicura, e il valore del titolo azionario corrisponde al valore della banca. Si è scoperto che era una bufala colossale, e tu non potevi verificarlo, e quando hai cercato di venderlo sarei preso 62 a 50 euro a 40 euro, non c'era mai un compratore, andavi allo sportello, il compratore non si trovava. Comunque il resto della borsa, al di là delle banche, che poi significa anche anche banche. Ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Lasciamo stare, insomma, il mondo bancario, a meno che non ci sia, forse su Unicredit si potrebbe fare un commento in più, perché oggi perde il 5,11%, e poi andiamo invece sugli altri titoli. Ma guarda, Unicredit insomma si appresta a un maximo aumento di capitale da 13 miliardi, ma per la banca di Piazza Gae Aulenti vale il ragionamento che vale poi per tutti gli altri istituti. Grande inizio di 2017, a seguito poi di un ultimo scorcio di 2016 piuttosto deludente in borsa, e oggi una giornata di stop. Per esempio Banco BPM dal 1 gennaio ha guadagnato quasi il 30%, oggi perde il 4%. Banco BPM, ricordiamo, la banca che è nata dalla fusione tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano. Invece, bene, sia ST Microelectronics più 3% che Fiat Chrysler più 1,40%. Di Fiat Chrysler parleremo tra un attimo. ST Microelectronics. Sì, su ST c'è una nota della banca d'affari UBS, qui al di là di quello che è poi il giudizio, perché si alza, diciamo, il prezzo obiettivo del titolo da 8 a 10 euro, in realtà poi ST questi 10 euro li ha già raggiunti. C'è una valutazione che fanno gli analisti e sottolineano che diciamo alzano la valutazione su tutto il settore tecnologico europeo, e in più sottolineano come tutto il settore high-tech a livello mondiale ha un eccesso di liquidità nei bilanci di 1.200 miliardi di dollari. Questo cosa significa? È tutta cassa che potrebbe essere usata per eventuali operazioni di acquisizione. Quindi, insomma, diciamo un fermento del settore che si annuncia, e ovviamente la borsa con queste cose ci va a nozze. Beh, direi che anche sui migliori e peggiori oggi c'è una pattuglia molto mista di titoli: Sintesi più 24%, Industria Innovazione più 20%, Bastoggi più 19%, Energy Lab più 18%, ROS più 16%, TAS più 11%, fronte opposto Vita, società editoriale meno 8%, Deutsche, Lufthansa meno 7,80%, Innovatech meno 6% come Retelit. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione, oltre alle banche, dicevo, oltre a Unicredit c'è Mediobanca che perde il 4,5%, Ubibanca il 4,20%, BPM il 3,90%, e Intesa il 2,70%, Biper il 2,60%. Segnalo Telecom meno 3% e poi Saipem meno 3% ed Eni, visto che la citavamo per altri motivi, meno 2%. Sono due titoli petroliferi che oggi hanno pagato un po' il fatto che il greggio ha ritracciato, il greggio che è sceso a New York a 52,5 dollari al barile, ha perso oltre 2 punti percentuali. In più Saipem veniva da un bel rialzo, aveva quasi, insomma, raddoppiato le quotazioni dei prezzi dell'aumento di capitale, anche se comunque stiamo parlando di quotazioni che sono sotto l'euro. Oggi Saipem vale 0,53 euro e quindi, diciamo, ha ceduto il 3,1%, qualche realizzo abbastanza fisiologico. Allora, questo per quello che riguarda i titoli. Diciamo che Fiat è, dopo ST Microelectronics, il miglior titolo, più 1,41%. E allora, nel ringraziare Ciao Condina, spostiamoci a Detroit, dove oggi ha tenuto banco soprattutto la posizione di Trump, che minaccia dazi e invita in maniera molto, diciamo, con il suo stile, i gruppi automobilistici americani a ridurre e comunque a non pensare a investimenti nel Messico. Gli ha risposto il numero uno di General Motors, Mary Barra, che tra l'altro è uno dei manager che consiglierà il presidente eletto Trump sui temi economici. Ha detto General Motors non ha intenzione di rivedere i propri piani di produzione dopo i tweet di Donald Trump, i piani di produzione in Messico. Trump aveva detto che aveva criticato la General Motors per la sua produzione in Messico e l'importazione esentasse negli Stati Uniti. Trump ha anche ventilato un'ipotesi di dazi nei confronti, dopo aver criticato Toyota, e lo stesso invece numero uno di General Motors, Mary Barra, ha detto ma è prematuro parlare di dazi. Toyota, faccio notare che nei giorni scorsi aveva risposto a Trump dicendo lo stabilimento in Messico non cambierà i livelli di produzione e di occupazione negli Stati Uniti. Alle critiche di Trump per sempre per gli impianti in Messico, invece un altro grande gruppo, Ford, ha risposto rivedendo i suoi piani, ha accantonato un progetto di investimento di 1.600 milioni di dollari in Messico. E oggi Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato di investimenti per 1 miliardo di dollari negli Stati Uniti e la creazione di 2.000 posti di lavoro per realizzare 3 nuovi modelli di Jeep e adeguare l'impianto di Warren per la produzione di pick-up Ram, attualmente prodotti in Messico, e poi rinnoverà alcuni impianti in Michigan e in Ohio nei prossimi 3 anni. Stranamente, Donald Trump ha twittato oggi: grazie Fiat Chrysler e grazie Ford. E poi Marchionne, sempre Detroit, ha detto ringrazio di cuore per averci ringraziato, è un atto dovuto al paese. Qui siamo a grazie. E Graziella. Allora, Graziella e poi invece il Messico, e grazie al Messico, perché voglio dire, qui mi sembra che chi si possa lamentare siano solo i messicani. Andrea Malani in collegamento con noi da Detroit, buonasera Andrea, buongiorno. Buonasera, spero di non sentire, di non vedere un tweet di Trump che ringrazia Marchionne per averlo ringraziato per il suo grazie. Ecco, si sta creando un teatrino molto politico e poco economico. Sì, però insomma mi sembra che il tema sia il tema che ha tenuto banco. Poi parliamo anche dei modelli oggi a Detroit, o mi sbaglio? Sì, il tema ha tenuto banco anche oggi. Marchionne è stato piuttosto chiaro. Intanto l'investimento che hanno annunciato ieri è un investimento ampiamente previsto e che rientra nella riorganizzazione anche delle attività negli Stati Uniti di Fiat Chrysler. Quindi diciamo non è una mossa, Marchionne ha tenuto a sottolinearlo. Ovviamente i tempi degli annunci, così come i tempi dell'annuncio di Ford che hai citato prima, sono chiaramente volti a diciamo arginare un po' la sventagliata di Trump, di tweet che Trump sta sparando ancora prima di entrare alla Casa Bianca. Marchionne oggi ha detto una frase molto, molto, molto chiara e comprensibile: non ho bisogno di spiegare a Trump come funziona l'economia, lui sa benissimo quali possono essere le conclusioni di certe decisioni giuste o sbagliate. Un esempio: se dovesse sorgere una guerra commerciale, a rimetterci potrebbero essere anche i nostri stabilimenti americani, ha detto Marchionne. Quindi attenzione, questo è il suo primo allarme. E il secondo, ed è stato molto deciso su questo, ha detto: noi in ogni caso non abbiamo intenzione di produrre in perdita. Ricordo, ha detto Marchionne, che nel 2009 2 grandi aziende americane, la GM e la Chrysler, sono fallite come conseguenza di politiche di questo tipo. Quindi va bene, diciamo, in qualche modo accompagnare positivamente l'arrivo del nuovo presidente, di qui a cambiare completamente le politiche di localizzazione degli impianti. Ma infatti la faremo a breve la puntata su un'analisi diciamo storica di che cosa abbia portato la liberalizzazione, che non va molto di moda adesso, ci mancherebbe. Il protezionismo sembra essere il nuovo mainstream, il nuovo pensiero dominante, però insomma ricordiamoci che i dati alla mano, la liberalizzazione hanno sempre portato crescita economica. Alcuni dicono attenzione, non selvagge, siamo d'accordo, nessuno sta parlando del Far West. Però meglio che il discorso sia chiaro, perché dire semplicemente riportiamo gli stabilimenti negli Stati Uniti, ok, non è che sono impazziti prima a portarli nel Messico. Ricordiamoci, come tu facevi, a che punto era arrivata l'industria dell'auto americana, cioè con 2 dei principali marchi su 3 in ginocchio, General Motors e Chrysler. Marchione ha parlato anche di Fiat Chrysler come conti, come dividendo, ci aggiorni dopo il traffico, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, dicevo, novità sul fronte dei bilanci di Fiat, Andrea Manana, invece anche novità del salone vero e proprio. Dunque, per quanto riguarda i bilanci, sì, Marchionne ha ventilato l'ipotesi che il gruppo possa pagare un dividendo forse già a partire dal 2017, inteso come esercizio 2017, quindi all'inizio dell'anno prossimo, a seconda di come saranno andati i risultati. Lui è stato molto deciso nel ribadire i principali obiettivi del piano 2018, che lo ricordiamo come l'ha sintetizzato lui: 9 miliardi di utile operativo, 5 miliardi di netto e 5 miliardi di cassa a fine periodo. Lui continua a ritenerli molto realizzabili. Gli analisti, che prima erano estremamente scettici, lo sono diventati un po' meno, quindi alcuni si stanno avvicinando alle sue stime, e il titolo, come hai citato tu prima, continua a salire, ha raggiunto e superato quota 10 euro. Molto dipenderà naturalmente da come andrà la congiuntura americana in questi due anni. Ricordiamo che è dagli Stati Uniti che Fiat Chrysler ottiene il 90% circa dei profitti. Marchionne comunque oggi ha assicurato che se riuscirà a riportare la liquidità in attivo per 5 miliardi a fine 2018, il gruppo sarà al riparo anche da un'eventuale recessione del mercato americano. Per quanto riguarda le novità delle altre case, infatti, adesso non parliamo di Fiat, allora, ma c'è Audi, BMW, prego. Sì, ci sono numerose novità. Devo ammettere che questa mattina sono stato soprattutto impegnato sul fronte Fiat, quindi non ho potuto ancora fare un giro all'interno del salone. Ricordo solo che diciamo i gruppi premium del lusso, molti, quelli più di alta gamma, da Ferrari a Porsche a Bentley, non sono qui, hanno preferito altri saloni come quello di Los Angeles, o quello di Las Vegas per l'alta tecnologia. Questo salone di Detroit ha perso un pochettino del suo fascino di attrazione, anche se ovviamente per le big three di Detroit, compresa Fiat Chrysler, resta quello fondamentale. E infatti anche nei prossimi giorni vedremo poi tutta la parte che riguarda l'Audi Q8, come tu già in parte anticipavi, la BMW che espone alla nuova serie 5, per carità, Volkswagen, un altro modello della famiglia ID e via così. Però oggi, oggettivamente, come anche tu ricordavi, la parte del leone l'ha fatta Trump e il neoprotezionismo di Trump, inutile girarci attorno sulle parole. Grazie anche a Andrea Malani, collegamento da Detroit. E adesso, visto come lo scrive un ascoltatore, parliamo di Fincantieri e di STX France. Non c'è una firma ufficiale, ci sono delle trattative. È stato dato il via libera alla giustizia coreana all'offerta di Fincantieri su il colosso francese STX France, che gestisce ed è proprietario, tra l'altro, dei cantieri di Saint-Nazaire, che sono i cantieri più famosi in Francia, anche per la costruzione non solo della parte civile, ma anche della parte militare proprio sulla costa atlantica. Allora, Fincantieri, di cui a torto nostro, per colpa nostra, non ci occupiamo abbastanza, è uno dei più grandi costruttori cantieristici al mondo, unico a livello, diciamo, internazionale, che realizza tutte le tipologie di mezzi navali, quindi dalle navi militari all'offshore, dalle navi speciali ai traghetti, ai mega yacht e anche alle navi da crociera, nonché è attivo anche nell'assistenza, quindi riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti anche nei servizi post vendita. Significa Fincantieri oltre 7.000 navi progettate, 20 cantieri in 4 continenti, 19.000 dipendenti, di cui il 40% in Italia e il 60% all'estero. Ha chiuso il 2015 con 4 miliardi 200 milioni di ricavi e ha ordini in portafoglio per quasi 22 miliardi di euro, oltre ai 2.600 fornitori che ha solo in Italia. Allora, il Tribunale Fallimentare Coreano di Seul ha ritenuto il gruppo italiano il miglior offerente per acquisire il colosso francese STX France. Si erano presentati anche il gruppo asiatico Genking e il consorzio del gruppo olandese Damen, di cui facciamo parte anche MSC Cruises, Royal Caribbean Cruises, e un fondo di investimento anglo-cinese. Se ho ben capito, Fincantieri andrà ad acquisire quasi il 67%, il restante 33% resta nelle mani dello Stato francese. Celestina Dominelli del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori. L'operazione dovrebbe, quando verrà ufficializzata, riguardare questa quota, ma perché è così importante per Fincantieri questo sbarco, diciamo, sulla costa atlantica della Francia? Beh, allora, è importante perché appunto il principale asset che porta in dote STX France sono questi cantieri dell'Atlantique, a cui accennavi anche tu in precedenza, che sono cantieri storici, sono stati costruiti nel 1861 e sono attualmente il più grande cantiere navale europeo e uno dei principali al mondo. E quindi con l'acquisizione di questi cantieri, di fatto il gruppo guidato da Giuseppe Bono diventerebbe, diciamo, il leader incontrastato, insomma, nella produzione non solo di navi da crociera ma anche nella parte militare, perché i cantieri appunto francesi che si trovano sulla Loira hanno una expertise particolare e fortissima. Basti considerare che da questi cantieri è uscita di recente la Harmony of the Seas, che è la più grande nave passeggeri al mondo, quindi coprono... Come si chiama, scusami? Harmony of the Seas. Harmony of the Seas. Già il nome è tutto un programma, insomma. Però appunto nel passato... sì, ma lì fanno, perché se non ricordo male, a Saint-Nazaire loro hanno un bacino di carenaggio che è lungo quasi un chilometro. Esattamente. No? Esattamente. Dove riescono a costruire, oltre alle mega navi da crociera da 220.000 tonnellate, do un esempio, a Monfalcone, l'altro grande cantiere di Fincantieri, le navi riescono al massimo ad avere 180.000 tonnellate, ma loro costruiscono sia le portaelicotteri d'assalto francesi, i sottomarini nucleari, le navi offshore, no? Assolutamente sì, cioè sono molto forti anche sulla parte militare. Questo spiega appunto il grande attenzione che ha sulla partita il governo francese, e come ricordavi tu bene prima, ha una minoranza di blocco nel capitale di STX France, che appunto è quella del 33,3%, ma che tiene moltissimo a preservare, diciamo, l'attenzione su questo dossier, proprio perché quello è l'ultimissimo presidio che consentirebbe alla Francia, qualora si decidesse, diciamo, di procedere in questo senso, di costruire portaerei di ultima generazione. Quindi è un presidio fondamentale per la difesa francese, e questo spiega perché il governo si è attivato dall'inizio, diciamo, della... Sì, loro ecco, devo dire che il ministro dell'industria francese, Christophe Sirug, ha detto, insomma, noi non dobbiamo dire né sì né no, però abbiamo sempre detto che vorremmo un'industria europea, e quindi che avrebbero preferito un'industria europea piuttosto che il fondo anglo-cinese o quant'altro, e Fincantieri è un'industria ed è europea, sarebbe difficile oggi dirgli di no. Insomma, è sostanzialmente un via libera anche dal pesante socio, ossia azionista di Stato francese, lo dico per le polemiche che hanno accompagnato in queste settimane l'operazione di Vincent Bolloré su Mediaset. È anche giusto ricordare che non ci sono solo le operazioni Francia su Italia, ci sono anche le operazioni Italia su Francia, e questa vedremo quando si chiuderà, ma è un'operazione mostra. Quanto varrà l'intera offerta? 200 milioni? Allora, in realtà non ci sono, diciamo, attualmente cifre definitive. Considera che secondo le stime degli analisti quell'asset, quindi 66,67% di STX France, dovrebbe valere 300-200 milioni, però questo è il valore dell'azienda al netto del debito, e di cui non si hanno cifre precise. Qualche giornale francese scriveva 1 miliardo, ma non ci sono conferme in tal senso. Quindi queste settimane che attendono appunto i vertici di Fincantieri serviranno non solo a chiudere la partita col Tribunale Fallimentare di Seul, quindi a procedere nella formalizzazione dell'offerta, ma anche a definire, diciamo, un prezzo finale per l'asset, che, come ricordavi tu in apertura, insomma, sarebbe appunto per Fincantieri un grande traguardo. No, perché è giusto anche ricordare, è vero che non abbiamo tanti grandi gruppi, ma quando un grande gruppo continua a crescere, si espande e fa un'operazione sinergica impressionante, perché appunto va a prendersi, da quello che noi ricordiamo, la più grande, diciamo, uno dei più grandi bacini di carenaggio al mondo. Insomma, dobbiamo essere contenti, non in maniera nazionalista, ma contenti perché è un gruppo italiano che va a comprare con ogni possibilità, ogni probabilità, restiamo un po' scaramantici, un colosso del genere in Francia. Grazie intanto a Celestina Dominelli, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un saluto adesso, per modo di dire, ma insomma un ricordo rapidissimo: è scomparso Zygmunt Bauman, grande filosofo della società liquida, utilissimo anche per analizzare i processi economici, per quello che può valere anche il nostro ricordo va a Zygmunt Bauman. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.